Capitolo 10. Le virtù. La castità. La castità è la virtù di chi si astiene da rapporti carnali non consentiti dal suo stato. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: a chi gli chiede la castità, Allah concede la castità, e a chi gli chiede la contentatura con poco, Allah gliela concede, e a chi gli chiede la pazienza, Allah concede la pazienza, e a nessuno di voi è stata concessa una grazia più ampia e più grande della pazienza. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: per un credente, dopo il timore di Allah, non c'è niente di meglio di una moglie virtuosa. La moglie virtuosa è quella moglie che, quando il marito le dice di fare qualcosa, la fa. È quella moglie che, quando il marito la guarda, il cuore gli si riempie di gioia. Quella moglie che, quando il marito le ha fatto una promessa, si rende meritevole di ciò che le è stato promesso. È quella moglie che, quando il marito è assente, si mantiene casta e custodisce la di lui proprietà. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: nel giorno del giudizio, il giorno in cui non ci sarà altra ombra che quella di Allah, alla sua ombra saranno sette, e tra questi l'uomo che, dicendo "temo Allah", resistette al tentativo di seduzione di una donna affascinante. L'umiltà. L'umiltà è la virtù morale per cui l'uomo reprime il proprio orgoglio. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: o uomini, siate umili. Colui che per amore di Allah si comporta con umiltà sarà elevato da Allah. La persona umile è di poco valore ai suoi occhi, ma è di grande valore agli occhi della gente. Colui che si gloria sarà umiliato da Allah. Egli sarà insignificante agli occhi della gente, mentre ai suoi occhi sarà grande, e con il suo modo di comportarsi diventerà più odioso di un cane o di un porco. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: il far beneficenza non fa diminuire il patrimonio, e per un atto di perdono Allah fa crescere la reputazione del suo servo che l'ha compiuto. Nessuno umilia se stesso per amore di Allah senza che Allah lo esalti. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: dovete essere umili gli uni nei confronti degli altri, affinché nessuno disprezzi l'altro e nessuno faccia torto all'altro. La verecondia è la virtù di chi rifugge da ciò che è turpe e men che onesto per un senso di innato pudore. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: la verecondia è parte della fede, e il destino della fede è il paradiso, mentre la licenziosità fa parte della durezza del cuore, e la durezza del cuore ha per destino l'inferno. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: l'indecenza rovina ogni cosa, mentre la verecondia l'abbellisce. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: in verità, ogni religione possiede una caratteristica esclusiva, e la caratteristica esclusiva dell'Islam è la verecondia. La verecondia, infatti, non produce che bene. La verecondia è tutta bene. Uno degli insegnamenti che la gente ha fatto proprio dell'antica profezia è questo: quando non hai pudore, da te ci si può aspettare qualunque cosa. La pazienza. La pazienza è la virtù di chi sopporta serenamente e senza perdersi d'animo le avversità e i torti, restando saldo nel fare il bene. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: la pazienza è metà della fede. La pazienza si manifesta al primo impatto della disgrazia, e non c'è uomo paziente che non abbia potenza, e non c'è uomo sapiente che non abbia esperienza. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: uno dei profeti di Allah venne percosso a sangue dalla sua gente e, mentre si puliva la faccia dal sangue, disse: «Allah, perdona la mia gente, poiché in verità essi non sanno». Disse: «Che Allah lo benedica e la benigloria. Sappi che la vittoria viene con la pazienza, il conforto con la sofferenza e il facile col difficile. E infine, la pazienza è luminosità. La munificenza è la virtù di chi, per amore di Allah, è largo nello spendere per la sua causa e nel fare doni». Disse il profeta di Allah, che Allah lo benedica e la benigloria: «Se ricevete in dono un fiore, non rifiutatelo, poiché esso proviene dal paradiso». Disse, che Allah lo benedica e la benigloria: «Scambiatevi doni, poiché il dono tiene lontano il malanimo dal cuore». Disse ancora, che Allah lo benedica e la benigloria: «L'uomo munifico è vicino ad Allah, vicino alla gente, lontano dall'inferno. L'uomo avaro è lontano da Allah, lontano dalla gente, vicino all'inferno. E un ignorante munifico è più caro ad Allah di un dotto avaro». La perseveranza è la virtù di chi è costante nel suo operare. Disse il profeta di Allah, che Allah lo benedica e la benigloria: «L'azione che Allah ama di più è quella che viene compiuta con perseveranza, anche se si tratta di un'azione di poca importanza». La giustizia. La giustizia è la virtù di chi nell'operare e nel giudicare si attiene alla verità e attribuisce a ciascuno ciò che gli è dovuto. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria: «I giusti saranno assisi su troni di luce vicino ad Allah, e sono giusti coloro che giudicano con equità e sono imparziali verso i loro familiari e i loro dipendenti». La ponderatezza è la virtù di chi valuta attentamente le cose prima di agire. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria: «La ponderatezza viene da Allah, mentre la fretta viene da Satana». Disse: «Due tratti della personalità che Allah ama sono l'indulgenza e la ponderatezza. La prudenza è la virtù dell'uomo che agisce con moderazione e cautela e sceglie i mezzi migliori per raggiungere, evitando i pericoli, gli scopi approvati da Allah». Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria: «Prudente è l'uomo che sta attento a se stesso, si tiene lontano da ciò che è dannoso e fa del suo meglio per ciò che incontrerà dopo la morte. Incauto, invece, è colui che dà libero corso alle sue voglie e cerca da Allah il soddisfacimento dei suoi vani desideri». Disse, che Allah lo benedica e la benigloria: «Prudente è l'uomo che vive in umiltà e agisce in vista della vita futura, mentre colui che si lascia dominare dalle passioni e spera in Allah è uno sciagurato». Disse, che Allah lo benedica e la benigloria: «Scegliete tra le azioni quelle che siete in grado di fare, poiché Allah non vi affliggerà finché non sarete voi ad affliggere voi stessi». Disse, che Allah lo benedica e la benigloria: «Il meglio di ogni agire è quello equilibrato», cioè la virtù sta nel mezzo. E infine, disse, che Allah lo benedica e la benigloria: «Il credente non cade mai due volte nella stessa buca». Walhamdulillahi Rabbil Alamin.